Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco, immerso in tinto dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, oh, per fare certe cose. Buongiorno, mi sentite bene? Mi state ascoltando? Beh, perché non è la stessa cosa. Oggi in studio con me il dottor Sandro Burdo. Pronto a spiegarci questa differenza? Il dottor Burdo, voi lo conoscete se sentite Obiettivo Salute, già ai tempi Cuore Denari, essere bene... Quanti anni? Dottor Burdo è un medico, audiologo e responsabile scientifico dell'Associazione Libere per Sentire Onlus. Dottor Burdo, sento e ascolto, noi li usiamo come sinonimo, ma... Sono due cose assolutamente diverse, perché udire è un fatto fisiologico e avviene naturalmente, mentre ascoltiamo noi dobbiamo decidere di ascoltare, quindi è un atto volontario. Perché? Perché ciò che noi audiamo, il cervello lo elabora e decide che cosa vogliamo ascoltare. L'esempio classico di chi sta leggendo un giornale e la moglie dice che è pronto e costui non risponde. Perché il cervello, quindi la corteccia, ha bloccato l'udito di quel soggetto. Non è un fatto psicologico, quindi è un fatto organico. Quindi quando noi diciamo, possibile che tu non mi ascolti mai? Siamo perfette. Siete perfette, ma anche come mamme, quando dite al ragazzino ma tu non mi ascolti, in realtà può avere il suo catarro dell'orecchio, tra virgolette, che può preoccupare e quindi rende un po' sordi, ma nella maggior parte dei casi il ragazzino in quel momento sta sognando, sta pensando a Peter Pan e se ha 14 anni qualcos'altro non ascolta i genitori in quel momento. Insomma, i bambini non pensano più a Peter Pan, ma lasciamoli lì. Senta, dottor Burdo, oggi in questa puntata di Primo Mattino, dopo che abbiamo chiarito la differenza tra sentire e udire, vogliamo anche rivolgerci un po', a mettere la pulce nell'orecchio a chi magari non sa o fa finta di non sapere che il suo udito sta perdendo qualche colpo. Allora, c'è... Perché c'è un po' un rapporto con l'idea, no? Non sento bene, quindi sto invecchiando. Sì, per molti è un segno di vecchiaia, sì, non è vero. E poi, ecco, e non è vero, questo ad esempio è una bufala. E non è vero perché in termini assoluti, noi ho fatto un calcolo per un convegno di qualche mese fa, ci sono più di quasi 4 milioni e mezzo di adulti 40-50enni con problemi di udito contro i 6 milioni e mezzo di anziani. Cioè c'è una differenza, ma non è che i sordi sono tutti anziani. Anzi, certo. Ma qual è il problema? Il problema è che gli anziani si vanno a comprare gli apparecchi perché per loro è normale. E poi dicono, ripeti, parla più forte oppure parla più piano, perché poi bisogna trovare... Ecco. Sono più saggi. Invece noi non siamo... solo, ma gli anziani, ad esempio, è interessante sapere che decidono di prendere l'iniziativa della cura se glielo dice il nipote. Il nipote ha una potenza incredibile sul nonno, e se il nonno non capisce i nipoti, quella è veramente lo stimolo che porta ad acquistare. È il cuore che parla. Adesso... Ma anche perché c'è una campagna in atto su questa cosa, si chiama Nonno Ascoltami, proprio perché verissima. Fa leva sul nipote, che è stato utilizzato anche per individuare un problema cardiovascolare, ma anche per il telefono, anche se per lei il guarda telefono. Gli spot pubblicitari, meno male, forza allora con questi nipoti che sono un po' il nostro futuro. Ma noi andiamo aggiungere una cosa perché questa cosa del nonno e del nipote è molto interessante, perché nipotino parla in un modo molto, come si può dire, scandito, quindi lento, con una fluenza molto lenta, e il nonno spesso ha difficoltà nel capire le voci accelerate. Ecco perché si trovano bene bimbi e nonni, perché entrambi parlano con la voce... stessa lingua, si potrebbe dire. Esatto, infatti esatto. Si dice, invecchiando si diventa bambini, sì, e si così. Sta bene con i bambini. Sì. Ma noi parliamo di chi Bambino non è più, è ancora giovane, molto attivo, ha 40-50 anni e ha un problema, ma non vuole ammetterlo, fa finta di non sentire. Allora, ci sono, attenzione, ci sono chi non prende provvedimenti, come ha detto lei all'inizio, c'è chi proprio non correla i propri disturbi con una sordità, molto raro, ma ci sono. Ricordiamo quali sono i sintomi da non sottovalutare. I sintomi sono: non capisco quando ci sono più persone che parlano, non capisco la televisione o un fischio nell'orecchio. Questi sono i tre sintomi e sento un po' offuscato. Attenzione, molti attribuiscono quel senso di offuscamento alla chiusura delle tube, come quando si va in montagna. In realtà così dicono, un tappo di cerume. Ho un tappo di cerume. Attenzione, questi continuano a deglutire, a fare manovre di valsalva, cioè si soffiano aria nelle orecchie creando delle pressioni positive che non sono neanche salutari, perché pensano di avere le orecchie chiuse. Non sono orecchie chiuse. Questo è uno dei sintomi della sordità, questo velo che impegna l'orecchio. Proprio come le persone che devono schiarirsi la voce, sì, ci sono delle persone che devono compensare perché si sentono l'orecchio. Parlato troppo veloce. Però. Sì. Sto parlando veloce. Abbastanza, però lei è un abile speaker, come tutti quelli che hanno successo. Se tutti quelli che fanno il suo lavoro misurassero la velocità dell'eloquio, molti avrebbero più successo o meno successo. Bisogna parlare a circa 70 parole al minuto in italiano, a differenza che sono poi 140, sono 70 nel dialogo, sono 140, a differenza ad esempio della lingua inglese che può arrivare a 200 parole al minuto. E questa è una delle tante difficoltà per cui noi latini abbiamo difficoltà nella discutere in inglese. Questa è una dei motivi. Facciamo fatica. Facciamo fatica perché parlano molto più in fretta di noi. Sono lingue, attenzione, sono lingue melodiche e che lavorano sull'accento, tant'è che gli inglesi si mangiano le parole e enfatizzano la parola accentuata, mentre noi siamo sillabici, quindi parliamo più lentamente perché dobbiamo, quando si dice articola bene, un inglese non articolerà mai bene, soprattutto un americano, perché lavora più di musica che non di sillabe. Mi sono incantata a sentire raccontare tutte queste cose e adesso farò particolare attenzione a questo 70, 70 e 70. Tornando ai nostri, e sono uomini, maschi, sì, 40-50 anni, dottor Burdo, mettiamoli un po' nelle condizioni di occuparsi di sé, perché è un investimento il preservare la salute del proprio udito per diverse ragioni. Ma la ragione che adesso è di moda è la correlazione demenza-sordità. La correlazione tra demenza e sordità sta solo nella accelerazione della malattia in chi è sordo. Sì. Per cui se io ho 40-50 anni e sono un po' sordo e sono predisposto ad ammalarmi di Alzheimer, per intenderci, sì, è più probabile che se non curo lo divento prima. Questa è la relazione. Cioè chi è predisposto a diventare demente, se anche sordo, accelera l'insorgenza della patologia. Le persone che fanno fatica a sentire e quindi poi ad ascoltare e sono nel pieno dell'attività lavorativa, sono affaticate da questo sforzo, tanto che al ritorno a casa sono sfinite e anche il loro umore peggiora, dottor Burdo, certo, proprio perché devono essere sempre in tensione per stare attenti ai suoni, alle parole che arrivano. Quindi questo potrebbe anche... Non solo, ma devono usare più il guessing, cioè indovinare da pochi indizi quello che è stato detto. Il senso della frase, che nell'anziano ovviamente non è così, come si può dire, brillante come nel giovane. Che cosa succede? Che costoro che si sono difesi quando avevano 40-50 anni usando queste abilità e tante volte barando, quando si diventa anziani queste abilità con un declino cognitivo minimo. Ecco, si rallentano. Beh, no? Certo, e allora si lasciano un po' gli ormai. Si evidenzia la sordità, ma non, in quel momento è troppo tardi. Un messaggio: cosa può fare il 40-50enne, stiamo parlando di maschi perché l'udito delle donne, ma a questo dedicheremo un'altra puntata, sì, è quasi perfetto, dottor Burdo. Quasi perfetto, l'ha detto perfettino, lei. Quasi. Allora, che cosa potrebbero fare, dottor Burdo, per arrivare presto e occuparsi e risolvere il problema? Bisogna fare outing, come se, cioè bisogna dichiarare il proprio problema. Sì. Bisogna dichiararlo e da lì prendere le giuste iniziative. Ci sono, vero? Ci sono assolutamente. Non bisogna, come si può dire, fermarsi alla conclusione. Bisogna andare da un medico, farsi fare una diagnosi corretta, ben precisa, in un centro qualificato. Centri che si occupano di udito. Di udito e sordità. Vogliamo... e sordità, si fa una diagnosi. Sì. Deve essere una diagnosi ben precisa e si vuole una indicazione corretta all'uso o meno di un apparecchio acustico, perché non sempre l'apparecchio acustico va prescritto. Faccio un esempio: se un anziano l'unico problema non sente il citofono di casa, è inutile mettergli l'apparecchio. Li cambio il citofono con una suoneria adeguata, certo, al suo udito. È più semplice. Bisogna prendere la giusta decisione per la giusta problematica, che non è il giusto udito. Cioè, si può essere un po' sordi e non aver problemi. Se io entro in un centro che fa commercio, è chiaro che mi evidenzia il fatto che io sono sordo. Quindi è meglio prima rivolgersi a un medico, il quale poi indirizzerà nel posto giusto. Grazie, dottor Burdo, per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Carmelo Lauricella, che in regia la parte tecnica, Laura Vanossi che è in assistenza e in redazione. Vi do come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.